Franco. Ehi, ciao, buongiorno, sono Porrauco. Fammene parlare, perché a me uscendo in moto mi crepa. Ascolta, poi per quel ricevitore te lo programmo io, capito? Ho parlato con Natale. Grazie Marcuri, va bene, ok. Io non c'ho voce qua, mi ha pescato la tosse e la raucidine qua, con questo tempo non si capisce niente. E tu conta che io sto scendo in moto anche di sera, dopo che tramonta il sole. E ti dico, ieri sera alle 8 a Piazzale Seni c'era una iazza. Ciu. Ui, per carità, qua. Bene, mi ascolti, Marco. Sì, a parte la raucidine ti sento bene. Io sto usando un President McKinley, ogni tanto lo rispolvero per evitare che si inchiodino questi apparecchi. Modulazione tutto a posto, sì, 1, 2, 3, 4, 5. Va benissimo, Marco lì, di lusso, alla grande. Che volevo dire? Io ho un 23 della Sommercamp. Ma quello che avevate provato una volta, che è rimarcato? No, questo è un altro che me l'hanno regalato, è un apparecchio ben vecchio. No, ho sbagliato, stavo pensando al tipo SBA, quella roba lì, ok, già da me. Voce chiara, vediamo che c'è su 10, che sto facendo qua, roba di giraccheria, stavo lavando una coperta e il gatto ci ha vomitato sopra. Questi gatti sono belli però, tra peli, vomitini per il pelo, viene voglia di prenderli e sbatterli al muro. Ci sono io, e a Franco si era pigliato la bromolostera come a me, io pure sono tutto messo male. La peronospera. E allora, uiaia, siamo tutti messi male, gatto, no? Tu una influenza, manco drenaggio, da pure i lacrime mi sto farendo, non sono per un buco. Siamo andata lì, ben entrato. C'hai una discreta alternata, credo che sia alternata, ma non sono sicuro. Alternata ciò? Qua? A meno che non sia una ventola. Franco, cosa ti sembra? Se vi sarà presa la pronostica qui all'alimentatore. Sì, sembra tipo alternata. Vabbè. Stavo rispolverando qualche radio qui. Allora io le metto nuove, pulite. Però qua, pochi giù, come cambi l'aria, gira la polvere e te ritrovi tutti impolverati. E te ne accorgi quando ti arriva il raggio di sole da fuori. Quando sta tramontando arriva il raggio di sole diretto sul baracchino e sembra pulito di solito. In realtà vedi che è un bel impolverato. E via di pennellino a pulire. Ah, via. Me la posso immaginare. Aspetta che mi controllo le stazionarie pure. E via. C'è proprio centro banda qua, niente, stazionare 1.0, 1 sta 1 mi. Via, Franco. Premi Natali. Ehi. No, adesso la sento a man meno, ma non so se dipende da me, mi è venuto il dubbio mi. Ehi, cosa ne so io? Io ho il microfono lontano, la lunghezza del braccio, c'ho il microfono a metà e anche il mic-in a metà. Se lo alzo amplifica di più se alzo il mic-in. Eia. Va bene. Adesso vediamo che lei insieme lo dice, adesso ci prendiamo con mamma il Wolf. Allora lo vendono, quando fanno l'offerta da lì, da Eurospin, vendono questo bombardino che praticamente è uguale al Wolf o alla Zabov e costa poco però, costa intorno ai 5 euro e spiccioli ed è veramente buono. Adesso le semi, ci pigliamo il bicchierino, così digeriamo quello che abbiamo mangiato. Io purtroppo non lo posso bere quello perché cazzo ci sarà zucchero dentro. Sì, è tutto zucchero, però è uguale al Volvo, è buonissimo, si chiama Bombardino e credo che lo facciano in Nord Italia, cioè probabilmente c'è una città, una regione dove è molto conosciuto e ogni tanto Eurospin se lo fa mandare ogni, che ne so, 4 mesi, ogni 6 mesi, e fa l'offerta, capito? Se tu vai a comprare il Bov, lo Zabov normale, ti costa roba di 10-11 euro, credo, ormai. Purtroppo io non ne posso buffare di quella roba lì, sennò invece di 2 mesi crepo subito. Ma Nathalie, lo sai, no, se vuoi migliorare molto la situazione, non è facile smettere di fumare, anche se non è facile, perché qualcuno ci ha provato, che conosco in tutti i modi, con i cerotti, senza cerotti, niente da fare, è diventato un turco, fuma più di prima anche. Figurati. L'unico modo per riuscirci, lo sai cos'è? Smettere di colpo, perché io ho smesso di colpo una volta e sono stato 8 mesi che non ne toccavo una. Guarda, un amico di mamma aveva smesso di colpo, senza volerlo nemmeno. Allora, l'aveva beccato in estate una zecca, no? Ha avuto la febbre alta, è stato molto male. E poi, come si è rimesso, non ha più sentito il bisogno di fumare, capito? Quei giorni lì che stava male hanno fumato e poi quasi gli faceva schifo. Non ha più fumato. Non lo so, io ho smesso di colpo lo stesso, no. Però una volta al mese ti viene sempre la voglia di fumare. E io però dicevo no, non fumo e basta, e non fumavo, capito? Solo che adesso non ce la faccio, sono troppo debole anche di non lo so. Cazzo, mancanza di volontà, non lo so. Eh beh, è come che a me dicessero devi smettere assolutamente di mangiare dolci. Preferisco morire contento. E non manco morire deciu. Invece io manco deciu posso morire, va giù il diabete. Ma dimmi tu, cazzo, come sono ridotto all'età mia, cazzo, sono giovane, sono ridotto già così, boh. Che te devo dire, purtroppo la vita è, certe volte ci manda delle prove. Da quando ho avuto la pancreatite non ne sono servito più. Sì, sei stato sfortunato tu, Nathalie, un bel di roba, un bel di roba ti è venuta. Quelle sono le maledizioni, mica, che ti hanno mandato, tra la cosa, quell'altra cosa, no, che, come si chiama, quella che sfoga, quando fai sforzi, ma non mi viene. Ah, l'ernia. E allora, è il coso, il diabete, ma il tuo, Nathalie, è un diabete di quello, diciamo, più attenuato, dove tu puoi correggere con l'insulina, o quello per cui devi sempre prendere l'insulina, pranzo, cena, colazione? No, quello tranquillo è il mellito 2, ho io, quello brutto è il mellito 1, quello che devi pigliare sempre l'insulina, io c'ho il 2, ma perché ci sto attento, capito? A me non me l'hanno trovata tanto alta, me l'hanno trovata alta perché quando sono stato ricoverato me l'hanno trovato il diabete, se no ne avevo io prima. Mangiavo il tutto tranquillo, però giustamente stavo attento a non eccedere, quindi non ne avevo mai perché sapevo di essere predisposto. Io anche la mollica dal pane ne tolgo, me l'ho sempre tolta, figurati, perché non mi piaceva, allora la toglievo la mollica e lo mangiavo senza mollica al pane. Ma adesso, cazzo, mi hanno trovato questo diabete, però mi hanno tolto tutte le insuline, prendo solo l'insulina la notte, perché se no mi devono aggiungere un farmaco e dice che è pericoloso proprio per la pancreatite. E mi ha lasciato solo un'iniezione, ma sì, unità ne faccio di quella lenta, che dura tutta la notte, una sciocchezza. Eia, va bene, io adesso stacco, vediamo se è entrato Franco, così almeno il canale si popola e continuo a fare queste cose in bagno, da. Stavo lavando roba e poi se c'è qualcuno dopo forse entro. Ciao Nathalie, a dopo. Ciao, buon proseguo allora Marco, dai, alle prossime. Franco, ci sei? Ah, sono entrato io, se n'è andato Franco. Bubu, andiamo bene, andiamo. Bubu, andiamo bene, andiamo. Oi, sì che ti ascolto. Cosa c'hai? Vabbè, io ti ascolto lo stesso, anche se hai l'antenna sotto il letto. Ehi, Manuè, tutto a posto, è da mettere a posto. Siamo messi male, siamo. Oh, sì, già sono un anno che non li vedo e non li sento. Ho capito. Lì, chi è che non lo sento? Manuele Ginco, però ha un'antenna di macchina, deve essere in una situazione precaria. Ma la cosa strana è che certi giorni arriva certe volte anche discretamente bene, certi giorni proprio non passa il corremme. Anche se lui la lascia in una posizione, è come che cambiassimi da un giorno all'altro là. Non lo so cosa influisce. E anche a me mi succede così, molte volte lo sento bene, e oggi per esempio lo sento basso, basso, basso. Tu lo senti perché sei quell'apertura verso giù, no? Dove c'è la valle delle... Già capito, è aperto verso lì. Può darsi di sì. Lo sento, bassino, ma l'ho sentito, Emanuele, capito. Purtroppo è basso, ma dipende dall'antenna sua, che c'è un'antenna di macchina, mi sa. Ce l'ha dentro casa, non è... È logico che o la tocca magari l'antenna e non la lascia nello stesso posto. L'altro giorno arrivava sparato qua. Ma molte volte ti sento bene e molte volte ti sento basso. Oggi per esempio adesso ti ho sentito un po' meglio delle altre volte. Poco fa ti sentivo proprio basso, basso, basso. E K, io non lo so di preciso dove sei tu, però io ti ascolto. Marco per esempio non si sente, lo senti Marco adesso che arriva un po' meglio? Negativo, Marco non mi ha risposto. Oh, mi hai chiamato Natalia? Volevo sapere se lo sentivi a Emanuele, perché arrivava un po' meglio adesso. No, niente, proprio qua oggi è zona d'ombra. Addirittura arriva leggermente lo splatterino dei grandi modulatori americani dall'11. Figurati. Che vuoi che ti dica, anche io li sentivo un poco fa. Vabbè, comunque Natali salutalo, che io adesso mi sta chiamando mamma, stacco, a dopo. E a dopo Marco, saluti da Marco Manuè. Lui non ti sente per niente, ha detto grazie Emanuele, perché ha staccato che l'ha chiamato la madre, capito? E perché sta facendo tempo l'onfio, per quello. Io lo stesso ho tutto influenzato, mamma mia. Pare che va già lo gufi, il dottor Rasarrado in prigione, ma dimmi tu. E saranno 4 giorni, 5 giorni che ce l'ho, ma sono sempre con la gola messa male, catarro, e questo, e quello, mamma mia. Figurati, gli ha dato che non fumi. A me proprio per dire un fumo mi si sottappendi tutti gli arteri, mi si sottappendi. Ma non ci ha fatto noduli alla tiroide, devo fare un'ecografia e me l'hanno fissata per agosto, quando sono morto la bozza. Ma vai da quello che andavo io, come cazzo si chiama, Rungiu, da quello lì, prova a telefonare lì e te la fanno la visita, cazzo di altro, senza passare per il cucù, perché sennò chissà quando te la fissano. E beh, non ti rispondono. E ho capito, bubu. Andiamo via, andiamo, Manuè. Un casotto, con questa sanità siamo proprio messi bene. Bubu. Io la sarei subitato tutta la linea, non mi sono pure riuscito a pigliare la linea. Non ci sono riuscito. Cazzo di aro, bubu. Ce la pigliamo buono, ma chi non si ricudi in mari, i taglienti, bubu. E tu ti digni la faccia di niente, Manuè, a Roma con i pazzini bazzà. Cosa cazzo vuoi ti dica? Già siamo butti veggia. E finza che non acciappano il rusuio. Finza che non acciappano il rusuio, davvero. Cazzo, quando fate una sassa roba è potente, da poi quando uno si gira e ricordo una verità su sede da casa Anguloni. Cazzo, a chi è che ci bisogna farli così? Se io sono cubrico da andare a pigliarmi la faini, io non posso camminare perché ho questa gamba che non posso camminare, no? Mia moglie teme, c'è Antonio che la fa buonissima la faini, beh non ci puoi andare perché bisogna di. Cazzo, mia moglie dimmi a passare in chibi, figurati. Chi su la base buona avvero la faini, a chi io la abitavo sempre in chibi ed era buona avvero. Eppure mia moglie dimmi e non ho più preso a faini per quel motivo lì. Perché mia moglie teme che ci va lì, di notte poi, non saranno, è tutto pieno di niente in chivi. Ma in via Grazielletta, boh, io l'ho presa in via Nurra lì, no, in via Grazielletta non lo so se ce n'è. Ma Saverio stai dicendo? Io so che pizzeria quella, fanno le pizze lì, non lo so se ne fanno faini. Ehi, pizzeria però so che è quello. Eppure glielo chiedo a vedere se la fa. Tanto entra al baracchino e lo sento. Capito? Aspetta un attimo, Manuele. Catavaggio, qui c'è Gadria, Manuele. Di chi si... con i rotelli, chi satane si va, però chissà si ne va la rasura, chissà cosa mi rasurti va, a olio è, se no va la gadria. Oh, c'è stato un fischio, c'è stato, Manuè. Avanti chi fischia. Vai, mangiati un brodio di mammo, a tagliare la favola, ma parlare con culo, drogato. Vai, può, mani. O tu lo sai? E anch'io lo so, Allora senti a Manuele, tu. A Ginko, mi sono ricata, adesso, sono completo in cicciato, Salta un pranzo. Io vedo gacchetta zitta di vino, buono, Sì, adesso mi devo lavare che devo uscire. Devo uscire con una ragazza, Natali. Ma sì. Manuè. Ma non mi devo uscire con più. Dalla macchina, ma non voglio manco vedere. Sto bene così. Adesso faccio la doccia, mi cambio e poi andiamo a mangiare qualcosa. Fatti, avanti Natali. Con la cazzata sei Natali, è tutti di Natali come pizza. Tutto passa, dai, vai, riprendi Natali. Così oltre che qualcuno ma ne sei anche un briacone fragico. Allora, questo è tutto la tua vera, non mi sembra brutta, siete dei fini, non sono da quando ci alza. A te lo compareggi, Manuè. Se non lo pazienti, che giovane, caro devi va. Comunque sono contento per lui, almeno se ne è uscito da mezzo ai bisticci. Lo stesso neanche a me piace bisticciare, meglio solo che male accompagnato. L'ho sempre detto io. Ah, io sai che ho già fatto un appassamento. Mi ero subito avviato, lo mattessi. A chi ho buso così, non è sopporto di stare sempre adirato, sempre bisticciando. Chi ci ha me rompendo i cazzo, ragazzi, non ne posso più. Infatti, la colpa è mia che ha giù voluto la bicicletta, ma mi tocca a pedalare. studiare. Della Giubilea d'Avona, ia. Sfortunato anche lì sono stato. E io cazzo di te, io non mi guglio peggio mai. Oh, già mi so che guglio va domani, va di. No, che già me la sono divertita prima. E io ho sposato nel 2010. Nel 2010 ho sposato, 12 anni fa praticamente. 12-13 anni fa. Quando va più, già ero umano comunque là, già mi sono divertito, la parte mia già me la sono fatta. E da poi chissà, ma fottito, cazzo, ma proprio fottito, Manuele. Ma io so cucinare, mi so occupato tutto, guarda, io sono stato solo e stato meglio, almeno non mi sarei adirato. Così è l'offio, così ha fatto bene Luca, si era mollata, Roma con cazzo se ne è liberato. Ma come eri già è giovane Luca? Tanto, c'è sempre vieni, no, non fa, perché cazzo ti viene l'esaurimento nervoso, non ho detto, non ti sono punto. Stratta lì, ci mangi cazzo una di brienni. E sta a casa di mamma, tranquillo, se lei mi facevo vedere la folletta, mi dice sempre nervoso, vedo. Ma c'è una di scio, no, guarda. Basta, proprio me ne passa dalla gara. E la verità, conosciuto questa qua e... Adesso vediamo, là, la cosa nasce cosa. Ma stai attento, non ti puni fisso, no? Non ripromessi nulla. Cazzo, si non ti andava una cosa di bere a culo, se la pesci da più lontano di un grasso. E pure sono così, io che mi sono guivato, se no cazzo, mi la via. Guarda, se trovo un appartamento me ne vado pure io. Non è semplice, non è facile, oi. Questo è uno 8 anni, quasi 8 anni. Ma ti posso dire, non me la fotti nulla. Gli anni passano, le persone basta trattarle bene, le persone devi dare anche gli spazi, non solo quello. E lì lo faccio, lì non me li dava i miei spazi. E da dire di sì, ma oggi non me li dava. Se vuoi uscire da giù non mi batte sci. E oia. Io cazzo l'ho trattata sempre bene a mia moglie, però è da me vado arrabbiato, non venuta di là a sta sempre venendo, a me non mi piace, è inutile, è più forte di me. Se trovo un posto dove andarmene me ne vado e la vado a fanculo. Sì. Mica ti sta ascoltando col portatile, magari ti avvelena con l'arsenico la roba da mangiare. E male sono che cucino io, sono io che posso avvelenare a lei, stia attenta. Sì, ma sai cos'è, perché state un po' battibeccando per colpa anche di questi vicini che rompono le balle, la TV, non vedo la TV, capito, c'è una situazione un po' così lì. Ciao Luca. Io già ho risolto, l'ha già detto che si venito a dirmi che lo così si vende, lo denunziando immediatamente. Stamattina mi ha fatto incazzare e ho sbottato di brutto, a non rompermi molto le balle, gli ho detto, e ha già messo l'antenna, si può vedere la televisione. Io va bene, pensa che mi pare e piace. E ti dico, Marrano, quello alle 8 torna per guardare la TV e sicuramente tu chiudi alle 8. Marrano. Manco per le balle me ne frega. Lui torna. Cazzo da buio, io si la ciappano in fondo a rubiane rotolo, sangurone, sono cazzi sui. Io si rivelli posso caricare i rudroni, mi sono più attento. Guarda, tu nel dubbio spara sempre. E noi usiamo si buono in garira. Ma cosa, non lo manco se voglio mancarlo, capito? Lo prendo in pieno. Vabbè, dai, scusate, ciao Marco. Dai, io vado a farmi la doccia, mi devo cambiare, troppo devo uscire. Ci sentiamo dopo, magari. Dai, ci sentiamo qua, vi saluto dopo. Ciao, buon tutto. Ciao Luca, ciao, io mi sento di nuovo, Natalì, che mamma chiama. A te le immagini a questo maccolino condo. a te le immagini, Emanuele. Ma anche Emanuele si è avviato. Attenzione, Cingomino. In forra, Emanuele. E peperoncino. Però dovresti farle come ti dico io. Le devi involgere nella carta stagnola, devi mettere molto condimento e involgere tipo caramella. Quando si abbassa la carta stagnola sono cotte. Quando rimangi mi di verue. Così sì, sai bene, Dubari. Così sì, che sono buoni, Emanuele. In forra, zii, a vedere. Da voi mi dirai la ripuccia, a vedere se andano a neve di Sari. Me lo posso immaginare. Io volevo dire, Tonino non si è inteso. E pure non l'ha già inteso più. Boh. Già, entra in di bogo, ma cosa no. Non stavo manco accendendo, stavo male, cazzo. Adesso già oggi mi sento un po' meglio. Ma speriamo in bene che mi baci questa cosa. Aggiù una cana andammi in a piccar, cazzo. Ero manco e vado dai nodi. Solo che se faceva un po' di sole per non andare, per non prendere colpi d'aria, rami, si faceva un po' di sole, rubarallo, me ne sarei andato a Calamari o a Seppie, là. Già ce l'ho la cannetta per andare a fare quel lavoro lì. Ma tu sei andato? Assurda. E ho capito. A me mi piace andare a pescare calamari e seppie. Sì, e lo so, aspetta che rientrata la 50 un attimo. Ciao Gianni. Uè, tu. Sono uscito appena da cento da... che sto mettendo in camera, in doccia. Sto per uscire troppo, da. Aspetta, mando un messaggio, due secondi, ciao. Via. Lo so, raffreddo anche mal di gola. Mi siamo tutti in valle, va. Ma mi sono svegliato adesso, ma... mi sono dormito dopo un pranzo. Mi sono uscito da... immagina. Invece io no. Sono stato con un amico a fare un lavoro, a domani mandare a finire un lavoro, che se me ne frega, rilasso, domani mattina alle 9:30 appuntamento. Sono andato a finire un lavoretto. Sto male su mare, di zia Ghito già. E la fai, non vai. Lui, con i tempi che corrono, lui, così, il ciambello, che so, non felice, no, di più. Vai. Felicità è la felicità, è utile. C'è un gioco senza essere felice. Vai, tranquillo. Io qua sono qua, se devi chiudere chiudi, io sono qua. No, già non devo chiudere. Ho acceso adesso. Oh, non è capitato, vai tranquillo, nel senso già mi è capito. Migliaia, tanto capretto. Via. Questa gola di merda, no? La mia testa bianca. Adesso oggi mi sono un po' incicciato, ma sono stato da Dio. Praticamente ho speso 8 euro, più 5, 13, 13, 15 euro, di maniera di video, ma bagnato. E dove sei andato? A Copacabana, paghi 5 euro, ti immagini, impossibile. Ma non sono mai andato. Tu pensa che mi hai invitato al... c'è il buffet, qui si chiama buffet. Gli avanzi, dai, comunque, gratis, andavo. Cavolo. Dove rimane questo Copacabana? Adesso l'ho sentito, però non mi ricordo mai. Di quello che c'era Campilli, quello che faceva la rettifica. Ah? Proprio lì dentro. Guarda, siamo divertiti un sacco, ci siamo messi a ballare, poi ci siamo messi a mangiare arachidi, tutta la buccia del tavolo è andata a finire tutta intera, tutti che se la buttavano addosso, guarda che ridere. E rubato una netta da burro. Ah, poi sono tutti amici lì, la prima parola l'ha fatto nuda, ha rallentato che è bruttato. Ho capito, se ne siete divertirsi tranquillamente. Fatti 6 e 10. Cosa? Ho capito già. Oh, mi hai detto una cosa tu, non ho capito io. Ho detto che Patrizia la padrona è 10. Ah, la donna la padrona. Benemida. Esatto, la donna. Benemida. E io che ti volevo telefonare, dice. No, già, se ce la facciamo un'uscita, noi due, se poi ci vede venire qualcuno, andiamo a fare una pizza, facci qualche cantata, già, stai insieme, un po' l'odore, boh. Dipende dalla voglia tua, dalla voglia mia, insomma. Ma a me già mi piace, da poi ovviamente secondo che ambiente ti sta, ti discosci, capito? Quando vuoi già, organizziamo, magari io già adesso dalla prossima settimana, se organizzo un giorno prima o due giorni prima, anche all'inizio della settimana, così io mi organizzo con voi e con lì non ci esco. Vedi come vanno le cose? Mi è preso freddo, che ero sotto la coperta con un miso bubisato, col maglione grosso e tutto quanto mi sono bucato, lui. E mi ha preso il freddo quando mi sono svegliato. No, ma facevo freddo in bici, la verità. E in bici c'è freddo, poi mi sono messo con i guanti, sono io ormai congelato, mi ho fatto la doccia bollente, anzi doppia doccia mi sono fatto. Tu pensa che me la buco pure anche poca acqua scalda, perché lo staccano qua. Mi hanno rotto i coglioni, ma credimi. No, se sto bene, sono maniche corte, mi sto preparando, dai. Anch'io lo stacco, però c'è lo scaldabagno che mi dura bollente, mi dura due giorni, poi calda, che ti puoi fare la doccia lo stesso, anche tre giorni, e di quelli elettronici che tiene l'acqua calda. Ecco, buonasera. Poi vai in giù. E allora, mi sono da poco fa che... Anzi, da stasera, che erano verso dalle 7:15, diciamo che sono in radio, dai, l'ascolto. Adesso siamo entrati. Buonasera Luca, ben sentito, e buonasera Gianni, ben sentito anche a te. Riprendi Luca. Ciao, riprendo io, ciao Gabino, ben sentito. Ma perché stasera gente c'era? Io mi sono svegliato tardi, mi sono coricato un po' tanto, e mi sono riuscito ad andare. Io ho finito, erano le 3:15 di lavorare da stamattina. Sono arrivato a casa, ho pranzato. Ho pranzato, ma ho lasciato il caso in caldo e poi mi sono messo un po' qua in cameretta, avevo le radio accese, ma non sono entrato perché ero un po' stanco, quindi ho detto adesso un po' mi rilasso, ho fatto la doccia, ho sistemato la stazione, qua ho acceso, stavo ascoltando un po' da caetta, adesso sono arrivato in radio. Ma c'era gente stasera? La verità non l'ho sentita già, perché avevo lo scorso anche altro, attenuatore, e non ho sentito nessuno. Perché tu mi hai in ascolto, stavo ascoltando da poco fa, pensavo che ci fosse gente. Io se mi dai 5 secondi devo andare un attimo in bagno, sto arrivando subito. Sì, anche io già. Anch'io, come rientro lo faccio la chiamata. Ok. Già, sono qua. Stavo stendendo i pantaloni. Sì, ho lavato. Conservati. Sono tipo quelli. Quelli eleganti. Quelli un po' leggeri. Infatti, io devo dire che dobbiamo stare al chiuso, sennò mi cancareggio un po' la voce. Questi pantaloni leggeri. Sono... non sono invernali, non sono manco primaverini, però... sono leggeri. E pizzeria vai? No, vado in un circolo che fanno piatti composti. E ho detto se volevo andare a Blackstone, così. Ma insomma c'è la affollato lì, capito? Allora, non so se vediamo, poi decidiamo. Io stavo per telefonarti per vedere se andavo in pizzeria stasera. Ma un freddo barocca, la mamma mia, non mi dà di due sci. Sono sincero, già io andavo da Bruno. Però se io ti chiedo una pizza croccante, ma devi fare croccante, non mi arriva a cingomma. La buona non premi, però ultimamente la pizza non mi è piaciuta. Te la... Quali è che domani è di Bimbo? capito. E niente, allora ho deciso di non andarci più. Abita a Dumagliato, Magna Bora. E a Dumagliato ti dico io, te l'ho deciso con Maghetti, però ultimamente non mi stava piacendo. Dove la prendo io? A San Gavino paghi, però la roba la fa buona, poi non fa solo pizza, ci fa ristorazione, fa tutto. Se vuoi calamari ti fai calamari, ma freschi, no, non calamari, tutto fresco fa, e in più c'è il pesce, tutto qualche vetrina, tutto lo scegli, ti fa quello che vuoi. Ma se vuoi poco fa c'è la Gavino, giusto? Ehi, ma si è sentato un attimo Gavino, ha detto che doveva fare una cosa anche lui, io devo andare in bagno, 5 minuti. Sì, sono entrato, eh. Buonasera Luca, ben sentito. Ah, Gavino, buonasera anche a te. Ciao Luca, buonasera. Sì, anche io ero in bagno, anche ero in bagno. E prendi già. Stava freddo, mi ha preso questo freddo come mi sono alzato, mi sono coricato con la coperta, come mi sono alzato mi ha preso questo freddo. Adesso mi sono di nuovo rattrappito dentro la coperta. Io, cioè, ma lo sai che ho preso il pellet, ho preso un tipo di pellet a Porto Torres, ho dovuto portare la stufa a 26 gradi e la vento a 3 perché non stava riscaldando nulla, cioè fuori di testa, già lo paghi questo pellet, cioè lo paghi tantissimo e lo prendevo. Lo prendo a Sassari, la verità, so Fabricomen, in quei cinesi nuovi l'hanno aperto perché l'ho provato una volta che era buono, scaldava molto. L'ho preso a Porto Torres ieri, ciccia, no, non sta funzionando, non sta andando. Alla Cidernet sei mai andato? Sì, sono andato e... E la verità va bene, ma non ci penso mai a passarci, non ci penso mai perché non lo so, bravo, me l'hai ricordato, bravo, lunedì lo prendo lì, adesso sta scaldando ma c'è la stufa a palla. Io vedo che alla Cidernet, siccome io lì vado a prendere un liquido che serve per stirare lavandini, che è micidiale, si chiama Ferrari, che l'unico me lo metti, siete blu blu e sta già tutto quanto, quando ci sono le lavandine otturate eccetera. Solo che ultimamente non ne stavano più facendo arrivare, ma vedo sempre la gente a gogo caricando pelle. Sì, bisogna ci passo, cioè quando ti fai le zappe che prendi, anche perché già quando ti trovi il pellet ti servono, in verità me ne ho fatto prima di Natale, me ne ho fatto un po' la scorta, ma l'ho usato tutto, adesso devo andare di nuovo a prendere un'altra decina di sacchi per fine stagione, per finire diciamo il corso freddo, perché come campagna sta scendendo la temperatura, stamattina c'era un grado, stamattina quando sono uscito per andare a lavoro c'era un grado. L'accendo la sera, diciamo alle 4 in poi l'accendo, la mattina quando mi sveglio alle 6, 5 e mezzo, 6 e un quarto, l'accendo rimane fino alle 9, sembra così ma lo consumo. Però con l'altro pellet la mettevo diciamo a 1, a 20 gradi e tempo un'oretta, un'ora e mezzo scaldava bene. Con questo qua non ne vuole sapere, stasera l'acceso erano le 14, mi ha detto, e c'era freddo, e stasera c'era freddo qua dentro, adesso l'accelerata sta scaldando. E l'unico la bette, si sa, no, costa un po' di più, però la bette è quello che tiene di più il calore, dipende sempre dal tipo di legno che usi, tu penso che lo sa, la bette è quello migliore, quelli che contengono colla ti sporcano di più la cucina, la stufa e in più scaldano di meno. Cosa ne so cosa mettono già, cosa ne so, guarda, già te lo fanno pagare tantissimo, e tuo pellet più comprerò e più hanno nel mercato, c'è roba che non serve, non lo so, purtroppo se non hai, perché adesso ci sono anche tante altre marche, all'inizio io quello che prendevo su da, diciamo, in quei cinesi mobili che c'è sopra, che sono sopra Bricome, mi sono trovato veramente bene, è un pellet che funziona. E a quanto lo pagavi? 7,80 mi sa, 7,80 o 7,89, una roba del genere. Però vabbè, lo paghi, ma se funziona, vabbè, il prezzo è quello, quest'anno è, ci dobbiamo adeguare. Però cioè, lo pago, che lo pago molto, molto, che lo paghi tanto, anche questo qua l'ho pagato, mi sembra 7,80. Diciamo che devi tenere la tuffa a palla. Adesso vediamo quando la spengo, poi domani mattina la pulisco freddo e vediamo un po' come, se, quanto me l'ha sforzata. Dove lavoravo io ne avevamo due tipi di pellet, uno era un prezzo e uno un altro. Uno mi pare che era 5,90 euro, una cosa del genere, l'altro non era manco 5 euro mi pare. Però la differenza c'è, uno era di legni misti e l'altro era di abete, capito? Ma questo qua è bianco, questo qua è bianco, boh. Anche questo qua è abete, anche questo qua è abete. Però pure questo è che per questa stufa non va. Poi c'era, l'hanno portato anche a fianco, a fianco a Bricomen, dove è Bricowold, se non sbaglio, avevano il Mefisto, la verità mi è uscito anche di mente andare a prendere quello, perché il Mefisto in questo turno qua non l'ho mai provato. Magari adesso lunedì vado e lo prendo di nuovo, però c'era freddo. Ma in campagna non ti conviene accendere il camino? Sporca già, il caminetto sporca e devi stare sempre appresso, pure il caminetto non scalda come la stufa, si scalda quei 2 metri, quei 3 metri, però è quanta legna. Guarda, se tu fai il conto già della legna, devi tagliarti la legna, devi appezzarla, devi prendere, devi, c'è lavoro, c'è molto lavoro, io non ho tempo, il caminetto se l'ho acceso il giorno di Natale perché fa atmosfera, è bello per la bambina, però ha fatto un casino qui la mia vacca. Ti fa nera la casa anche, ti fa sporca anche la pittura della casa, lo so, poi fa l'odore, però è bello, è l'atmosfera, come hai detto tu, è bello, ci stai vicino, racconti le favole alla bambina vicino al cammino, è bello. Sì, è vero. Sì, l'ho acceso dal 22 fino al 26, abbiamo fatto, diciamo, le date lì, e ho acceso il camino, si stava bene, fatto un'osfera, era un fiato, cioè, non è puzza, fa odore di, diciamo, di un po' di legna, ho usato l'invastro, ho usato legna buona, perché io in genere ogni anno me la... Per esempio l'anno scorso per quest'anno me l'ho appezzato un pochino, sono andato a fare un lavoro, c'erano degli alberi da, diciamo, da portare, meglio fatti, un po' di tronchi russi, me li ho messi da parte, sono stati 3-4 quintali di legna, li ho usati anche perché poi col caminetto metti un pezzo di carne, la fai, però già. Fa molto, diciamo, fa fuorigine, poi se c'è vento un po' rientra, anche se il cammino è fatto bene, però non è che lo puoi usare tutti i giorni, nei paesi si usa, però diciamo se abbiamo una comunità della stufa è meglio. Io del ricordo del cammino, mi ricordo che quando facevamo le feste in campagna con questo amico mio, facevamo le feste, portavamo donne, cose, ballevamo, facevamo le arrostite nel camino, e c'era il nonno di questo amico mio che ci raccontava le storie di guerra e tutte queste cose, e c'era un'atmosfera bellissima, noi tutti quanti attorno al camino e lui che raccontava. Sì, è bello il caminetto. E io in sala c'ho anche il forno, diciamo il forno a legna, dove c'è la stufa o anche il forno a legna, funziona tantissimo, è bello, abbiamo fatto anche la pizza, però noi poi ci vuole un forno acceso, ci vuole sempre legna, tu il forno devi anche saperlo usare, perché il forno se non lo sai accendere ti fa un casino nero. La prima volta che l'ho acceso, quando siamo venuti a abitare qua, l'ho acceso, no, ho messo io, non lo so usare. Giù Bulto Regna ha fatto una fiammata, usciva il fumo nero, no? il fumo tipo camion. Beh, ci credi che il giorno dopo ho dovuto imbiancare. Ho dovuto imbiancare perché c'era nido, era tutto nero, tutto un casino. Ho dovuto imbiancare. Lo so, ti fa casino il cammino, però l'atmosfera è bella. E il cugino della mia compagna praticamente c'ha il cammino in casa, a ripunti si è fatto. Allora, lui aveva il garage, c'era la discesa dove si scendeva con la macchina ed era un garage enorme, grande, e lui l'ha fatta a taverna, ci ha messo il cammino fatto artigianalmente, non di quelli prefabbricati, ma di quelli artigiani, con praticamente tutto lo scorrimano in noce, tutto attorno, tutto in noce, e poi fatto di pietra e con le pietre refrattarie all'interno. E lì, cavolo, cucina porcetti, agnelli, di tutto, c'ha lo spiedo elettrico, lo mette vicino al cammino e fa arrostire così con la legna il porcetto, e lo spiedo gira da solo, capito? Praticamente lo fa. Sta anche 4 ore per cucinare, ma devi assaggiare questo porcetto come lo fa, bello croccante, buono. Sì, l'ho fatto anche io, sì, lo facevo anche io il gira rotto, da mettere il caminetto. Me l'ho autocostruito e fa, guarda, lo so quanto, poi ho messo un pezzo di lamiera per terra, dentro il cammino, ho preso e messo la braccia nella lamiera, diciamo la lamiera è ghisa, e ci ha messo quattro ore, già, tu ci credi che quando tagliavi la cotenna sembrava plastica, bellissimo, ma qualche giorno lo faccio, se trovo il porcetto buono, ma qualche fattore, a qualche amico me lo faccio. Ti sto ascoltando con l'analizzatore di spettro. Se mi fa un passaggio, allora già mi sono accorto che la tua voce si accentua dai 300 ai 3000 Hz. Ti mancano le basse frequenze, già, devi metterti un po' di basse frequenze nella gola. Ehi, vabbè, questa è la mia voce. sì, lo so. Sì, va molto, vai, hai una curva che va da 300 Hz fino ai 3000, ce l'hai piena, ma piena, hai una linea tipo un'onda quadra. Che avanti? Che sì? Io non ho preso nulla, Bruno sì, con l'eco sì. Prova. Un'alternata sento io. È un passaggio lungo però, Bruno, perché se muori subito non riesco a capire. Anzi, fa una cosa, metti la portante senza parlare. Sì, ti sento, sento un casino più che altro, sento un innesco e poi si sente il bip, biru, biru. Sì, anche io ho tirato fuori il bip, me l'ha tirato fuori proprio l'analizzatore, e poi ha una sorta di alternata sui 200 Hz. Luca, che cosa stai uscendo? Uno? Vabbè, riprendi tu, Gabi, poi lo richiamiamo. Anche io l'ho ricevuto, me l'ha tirato fuori l'analizzatore e c'è una specie di alternata a 200 Hz e poi ha tirato fuori due colpi di bip, ho ricevuto due colpi di bip, ma la sua voce era quasi a meno 25 dB, cioè quasi assente. E infatti pensavo che avesse la febbre o roba del genere, sai perché è basso che sta parlando? Sì, la voce è bassa e ci sente questo un rumore strano, un innesco. Sì, ma io non l'ho sentito di radio, io non l'ho sentito di radio, me l'ha tirato fuori l'onda sinusale qua. Dico proprio, ho sentito, mi ha fatto questa cosa, questa onda tipo MIP a 1500 Hz e poi a 200 c'era questa alternata, è una specie di modulazione che andava diciamo dopo 200. Figlia, Bruno avanti! Ho tolto per la parecchietta, cosa che non serve di più, questo sto a fare tutto qua, questo è perfetto, questo va bene. Avanti, l'hai copiato da... L'ho copiato basso basso a Bruno. Comunque buonasera Bruno, se mi copi, Gavino da questa parte, coordinate il sorso proprio Torres. Scusa un attimino il telefono. E beh Gianni. Un attimo al telefono lui. Non ho capito Gabi. Ho detto che Gianni è un attimino al telefono. Se non sbaglio. Ok, dai. Io mi sto preparando perché adesso devo uscire, Gabi, capito? Dai, 2 secondi e arrivo, così poi magari vi saluto. Se no poi lo faccio tardi, dai. Positivo. Fai un comodo, siamo qua. Almeno io sono qua. Eccomi. Fatto. Ehi, era un amico, dai. Gli amici non si possono mai scartare quando ti chiamano. Io rispondo sempre. Ho visto gente che non risponde quando per dire chiami e cose non ti rispondono. Io rispondo sempre. Sì, ebbè. Per forza. Aspetta che tolgo. Questo filtro. Per forza, bisogna sempre rispondere. A me quello che mi scoccia è quando mi chiamano di sabato sera alle 7 oppure di domenica alle 11 domenica mattina, che vanno a vedere delle camere da letto, vabbè, se ne vale la pena comprare, se posso andare ad Alghero a vederla. Ma tu sei un pazzo, cioè la gente non ha ritegno. No, quello lì no. A me quello che mi gira le balle sono quelli che fanno pubblicità alle cose telefoniche, oppure ti chiamano per Amazon per vedere se vuoi mettere 200 euro, che poi ti aumenteranno, ma quando mai tu metti 200 euro e poi mensilmente ne ritiri 2000, ma io, secondo me è una truffa. No, secondo te è una truffa. No, a me, guarda, io a volte... A me non piace essere sgarbato già, però guarda, a me ti faccio vedere, guarda, ti mando un messaggio, screenshot di gente che alle 4:30 del mattino mi contatta se tra 2 settimane posso andare a vedere un lavoro, cioè alle 4:30 del mattino su Messenger. La gente è pazza. L'altro giorno stavo passeggiando con mia figlia, dai, domenica sera, e mi chiama questo qua, un conoscente, cioè ma vi ascolta, sono qua da Alghero a vedere una cucina, una sala, ma ti viene male farti una scappata a vedere se ne vale la pena comprare. Scusiamo un attimino, io domenica sera io sono andato a passeggiare con mia figlia e tu mi chiami per fare queste cose, sai, lavoro, sì, ma lavoro, ma io la domenica, io se permette la domenica pomeriggio sono per gli affari miei, lavoro non si rifiuta mai, però caspita, un po' di contegno, un po' di cose, poi io posso anche venire, mi dai 150 euro per la chiamata, poi dite buon vendo televisione, poi io non so, cosa ti voglio dire? Cosa ti non so che no, per vedere se ne vale la pena, ma quello devi vederlo tu, se ne vale la pena. Cioè, non lo so. Che sai che tu vale gli amici, tu li fai il trasporto, le loppiate, ma cioè non è che puoi dare consulenze e roba del genere, e poi ti chiamano fuori l'uomo. Ma è gente che non ha ritegno, non c'ha, boh, sono pastori brutti, c'è gente che ti chiama in orari che non ti deve chiamare, capito? Magari quando stai riposando. E io ci penso a queste cose, perché anche io per dire dopo pranzo mi faccio il pisolino, e mi dà fastidio se mi disturba. Ma io già in settimana, anche il sabato rispondo, perché non è, io sono sempre reperibile, problemi non ne ho, però la domenica anche a me piace stare con la famiglia, mi segui, io posso rispondere a un amico, beh come stai, io ci vediamo, andiamo a prendere un caffè, ci sta, mi va, non ho problemi, sì sono una bambina, dai metti in moto e vengo, ci vediamo, non ho problema, ma se mi chiami di domenica sera ti dico che sono con mia figlia, sto passeggiando, la porto a giocare, a fare, perché in settimana io a casa ci sono poco, mi segui, oppure quando ci sono lei, la mia suocera, la mia madre, o ce l'ho io, vabbè, però di domenica sera tu non puoi pretendere, perché era quasi una pretesa di venire alla chiesa, per dire questo lavoro, che non fa legname, se viene, niente, allora vabbè non la prendo perché è un'occasione, fai quello che vuoi, io non lo so, comunque sono impegnato, ciao. Ma poi a due bassi, che se la ride ti devi uscire, boh, una cosa se si mette d'accordo con te, lunedì andiamo a vedere questa cosa, c'è qualcosa da fare, andiamo insieme, vengo, ti prende, andiamo a vederla, una cosa a casa che ti devi uscire tu alla riera, apposta, boh. Guarda già, ci sono delle situazioni un po' allucinanti, poi il mondo del lavoro, sai come hai lavorato una vita, quindi la gente che pretende ce n'è tanta, o meglio che ci sia, perché guarda il lavoro a giorni d'oggi non bisogna mai disprezzarlo, però ci sono anche diciamo delle fasi, in modo che, cioè, delle fasi che una persona